Le scelte, perché si tratta di varie scelte compiute da questo gruppo dirigente del PD, hanno compromesso l'efficacia della campagna elettorale, di un'azione politica, di un'offerta politica che potesse essere realmente competitiva con questo centrodestra che si è presentato chiaramente unito. Quindi sono cose che abbiamo dettagliatamente anche affrontato durante la campagna elettorale, no? Ce lo siamo detti più volte. Di fatto i cittadini hanno dimostrato e stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il voto giusto, il voto per contrastare questo centrodestra, era un voto che andava dato al Movimento 5 Stelle, e quindi questo gruppo dirigente può sicuramente assumersi delle buone responsabilità per non essere riusciti a contrastare quella che obiettivamente bisogna riconoscere è una vittoria del centrodestra. Questo punto, il fatto di essere all'opposizione rende superate tutte le domande che mi sono state fatte durante la campagna elettorale, cioè col PD, accordi, coalizione, eccetera. Noi saremo l'avamposto per quanto riguarda la realizzazione dell'agenda democratica, dell'agenda progressista che abbiamo indicato, un manifesto, quello di un ventaglio di riforme che sicuramente delineano un progetto politico, un progetto di paese che soprattutto mira all'inclusione sociale, persegue la giustizia sociale, una transizione ecologica vera, non finta. E da questo punto di vista adesso vedremo il PD se ci verrà dietro, se vorrà unirsi alle nostre battaglie all'opposizione, e noi ne potremo discutere, insomma, senza nessun cartello, senza nessun accordo, senza nessuna coalizione.